Speciale, la politica nel tunnel. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito, dalla nostra postazione di Montecitorio. E buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. Consultazioni allora nel vivo qui alla Camera. Il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani ha incontrato questa mattina i sindacati. CGIL e CISL e UIL hanno lanciato un appello: c'è bisogno di un governo ad ogni costo. Per il segretario della CGIL Susanna Camusso in particolare la crisi è drammatica e ci vuole un miracolo. Intanto le consultazioni continuano qui a Montecitorio. Sentiamo allora Don Ciotti che si esprime così su Bersani, ascoltiamo. È un uomo duro che non molla facilmente e credo che ce la metterà veramente tutta a cercare una soluzione. Quello che posso dire è che mi sembra c'è lo spirito del servizio per il bene comune del Paese, questo mi sembra per me molto importante. Io esprimo riconoscenza perché da anni che noi chiedevamo come società civile responsabile che i governi che vanno a formarsi, i governi eccetera, abbiano un ascolto di queste realtà che operano in questi contesti. È la prima volta che succede di essere ascoltati per portare un contributo, io spero sempre rispettoso, umile, però anche necessario perché arriva dalla strada, arriva dal basso, arriva. Però mi sembra importante ancora una volta l'ascolto della storia, delle fatiche, delle speranze delle persone e soprattutto la politica. O recupera un'attenzione agli ultimi, ai poveri, a quelli che fanno fatica, no? Se no non è politica, un'altra cosa. Consultazioni che entreranno nel vivo qui a Montecitorio, Vincenzo, domani, ma già questa sera si prepara un momento un po' difficile nel Partito Democratico perché c'è un'ala che vorrebbe dialogare con il PDL. Il partito ne parlerà stasera alla direzione nazionale in diretta streaming su UDEM. Ha detto adesso tutto sta diventando streaming, Vincenzo? È incredibile, questa è una rivoluzione un po' grillina. Ma intanto Matteo Renzi fa sapere che non ci sarà. Sentiamo cosa ha detto il sindaco di Firenze a Radio Toscana. No, bene. Ma per un motivo molto semplice, è stato convocato all'ultimo tuffo e io ho da fare il sindaco perché alle 7 sono a altra Firenze cosa. A fare il sindaco. Io leggo, Perché Bersani ieri, fatela finita con le polemiche, no. Perché Bersani sta provando a formare un governo, io spero per il bene dell'Italia che ce la faccia. Sì. E credo che la mia serietà e la mia lealtà siano totalmente fuori discussione. Nel Popolo della Libertà invece Silvio Berlusconi ha riunito i parlamentari qui a Montecitorio e ha lanciato una proposta shock, quella di una grande coalizione con Bersani, premier e Alfano vicepremier. Altrimenti, questa è la tesi di Berlusconi, si deve tornare al voto. Il Cavaliere aveva parlato così a Mattino 5, ascoltiamo. O il Partito Democratico cambia linea a 180 gradi, due l'una. O il Partito Democratico cambia linea a 180 gradi e si apre che apre alle uniche cose ragionevoli da fare, e cioè deve rendersi disponibile a un governo con il Popolo della Libertà e con le altre forze responsabili, un governo che abbia come primo obiettivo quello di far ripartire l'economia dando respiro fiscale alle famiglie e alle imprese e contemporaneamente dichiara il proprio impegno a contribuire ad eleggere un liberale, un moderato alla Presidenza della Repubblica, visto che loro occupano la Presidenza del Senato, la Presidenza della Camera, la Presidenza del Consiglio, oppure l'unica cosa da fare è andare al voto e farlo al più presto, senza far perdere al Paese un solo giorno di più. Ma questa ipotesi, questa del governissimo, della grossa coalizione, non piace per nulla al PD. Roberto Giachetti prima ci ha detto Berlusconi cambia idea ogni secondo, la campagna elettorale è finita. Poi l'abbiamo chiesto a Beppe Fioroni, cosa ne pensa di un governo con Bersani premier e Alfano vicepremier? E Berlusconi burattinaio, non mi pare questo il clima. Io credo che dobbiamo fare delle proposte serie, dobbiamo condividere un percorso di rinnovamento e di riforme, e per fare questo percorso di rinnovamento e di riforme occorre mettere in campo un governo che avvii la legislatura, che è consapevole che non sarà un governo di legislatura e che è consapevole anche della maggioranza che può essere messa in campo, tenendo conto delle asperità post campagna elettorale che ci sono state e tenendo presente anche delle tante prese di posizione che in questi giorni Berlusconi e la PDL hanno messo in atto. Fare cose non comprensibili dagli elettori non sono utili né per l'Italia né per gli italiani. Ma se i grillini vi dicono di no, a questo punto che si fa? Si ritorna alle urne oppure si fa un governo di unità nazionale col PDL? Molte strade non è che ce ne sono. Io credo che in questi momenti il silenzio è d'oro. E per rimanere in tema, dopo che Grillo ieri è riuscito a dire che sono figli del Porcellum e criticabili Grasso e la Boldrini, insomma Grillo è come il bue che dice cornuto all'asino, non si è candidato alle primarie finte che ha fatto, non si è candidato al Parlamento, guida un gruppo di parlamentari via multimediale, fa il presidente di un movimento senza che nessuno l'abbia eletto, il vice è un suo parente o affine, e il terzo membro è il suo commercialista, insomma, diciamo che in quanto a Porcellum... Conflittuale un po'. In quanto al Porcellum, Grillo ha la cattedra, la laurea honoris causa, e già che c'erano gli hanno dato pure la cattedra. Queste dunque le parole di Fioroni del Partito Democratico, ma torniamo al Popolo della Libertà. Grande l'entusiasmo dopo la manifestazione di sabato a Roma. Berlusconi appare quindi già pronto per la campagna elettorale, ce lo ha confidato Beatrice Lorenzin, ma tu, Elisabetta, hai intervistato anche Alessandra Mussolini subito dopo la riunione di partito. Ascoltiamo allora la Mussolini. Entusiasmo per la nostra manifestazione di Roma, che lui dice avrebbe anche cambiato il risultato dell'ultima elezione, e anch'io credo che sia vero, e poi una programmazione di altre manifestazioni in corso. Senta, ma invece questo fatto che Repubblica ha detto che c'erano questi figuranti? Ma quando mai, ma per carità, assolutamente no, c'era gente informatissima, tra l'altro non è vero assolutamente, sempre perché purtroppo non ci vogliono stare, invece no, assolutamente no. Non avete pagato 10 euro ai pensionati, no? Assolutamente, c'è un sacco di giovani, e che poi quando uno vede un pensionato deve essere per forza sempre indottrinato, no, non è così. Ma il governo col PD voi lo fareste sempre? Ma è il PD che non lo fa con noi. Cioè il PD, Bersani ostinato, testardo, deve capire che o Grillo ci siamo noi, Grillo non vuole, rimaniamo noi. Aspetta, una domanda scomoda per il cognome che porta, ma Grillo è un po' fascista secondo lei? Oh, Grillo è assolutamente un anarchico. Non c'entra niente, non è indottrinabile, non è a livello gerarchico, è possibile collocarlo, anzi è l'antitesi. Ma non vuole indottrinare i suoi? Vuole... No, non li indottrina, perché potevano entrare tanta gente col cervello, invece non è che sono entrati tanti, diciamo ci sono dilettanti allo sbaraglio, ecco perché loro non dovrebbero proprio avere l'indennità, devono fare un apprendistato. Non lo vede un erede di suo nonno? Ma quando? Ma fatemi il piacere. Però ha visto, la Lombardia è una fan di suo nonno. Fatemi prendere il caffè se non mi sento male. Lei non è fan della Lombardia, però. No. Abbiamo un po' scherzato con l'onorevole Mussolini, sappiamo che lei è una persona che si presta al gioco, hai sentito, quindi chiariamo un concetto, Beppe Grillo ha detto Alessandra Mussolini non è fascista ma semmai anarchico. Anarchico. Hai capito? Intanto però Beppe Grillo, l'anarchico Beppe Grillo per Alessandra Mussolini, è impegnato nella caccia ai troll. Tu sai che cos'è un troll, Vincenzo? No, no. Il troll è praticamente un infiltrato nel suo blog, perché siamo tutti in versione internet nel movimento 5 Star, e allora dice gli intrusi che fanno i post sul blog del Movimento 5 Stelle accusati di voler dividere il movimento, cioè dice di segnalare i commenti dei troll, di questi intrusi e degli utenti che contravvengono le regole del blog, ma il blog non dovrebbe essere aperto a tutti, non era la democrazia diretta quella del Movimento 5 Stelle, vabbè, infiltrati, dice Beppe Grillo, che gettano fango. Ora lui non ha usato proprio fango come parola, ma noi siamo in radio, siamo un po' cerchiamo di seguire un codice di comportamento anche di buona educazione, però diciamo che si può capire che cosa, qual è la parola che ha usato. Noi tralasciamo, e non lo so, Grillo insomma sì, è sempre più sul piede di guerra. E poi ricordiamo che Grillo se l'è presa anche con i presidenti di Camera e Senato, Boldrini e Grasso, celebrati come figlie del cambiamento, ma in realtà eletti, dice Grillo, per coprire gli impresentabili. ma arriva anche Franco Battiato, assessore alla cultura della regione Sicilia, a bloccare l'ex comico. Beppe Grillo sta esagerando, dice Battiato. Quindi ecco un po' tante, se così vogliamo dire, le critiche verso il Movimento 5 Stelle e soprattutto verso il suo guru, che evidentemente in questa fase lavora affinché il tentativo Bersani non ottenga un successo. Ricordiamo, Elisabetta, quali saranno gli appuntamenti in settimana. Domani ancora le consultazioni, giovedì poi Bersani salirà al Quirinale per riferire. Ecco, secondo te quali sono i margini di manovra per il segretario del Partito Democratico? Beh, sicuramente alla fine o fa un accordo con il PDL oppure i margini sono molto pochi, anche se c'è qualche rumor qui a Montecitorio che dice che Beppe Grillo ha scelto questa linea intransigente per spaccare il movimento e restare così all'opposizione. Ma noi ve lo racconteremo. Un saluto da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.